Le 13 in punto. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Vertice di Berlusconi a Palazzo Grazioli con alcuni ministri sul piano per il sud. Si prepara una bozza da portare venerdì in Consiglio dei Ministri. Autobomba nel nord della Spagna, decine i feriti, nessuna rivendicazione ma si pensa all'ETA. Omicidio-suicidio a Ro, vicino Milano, un uomo ha ucciso la moglie in strada, poi si è tolto la vita. Bloccati alcuni check-in all'aeroporto napoletano di Capodichino, protestano i dipendenti della società di gestione, a luglio niente stipendio. La BMW annuncia, alla fine della stagione abbandoneremo la Formula 1, i vertici parlano anche di ragioni ecologiste. Mondiali di nuoto di Roma, si aspetta il bis della Pellegrini nei 200 stile libero, la finale nel pomeriggio. Una buona giornata da Alessandra Tedesco. In apertura di questa edizione del GR Extra Large, il piano per il rilancio del mezzogiorno, annunciato nei giorni scorsi da Silvio Berlusconi. Il premier ha convocato per oggi a Palazzo Grazioli alcuni ministri interessati. Ce ne parla in diretta da Roma Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Rilancio del mezzogiorno, sblocco dei fondi per le aree sottosviluppate ed ancora l'ipotesi di una nascita di un partito del sud. Di tutto questo si parlerà tra circa mezz'ora a Palazzo Grazioli. È stato lo stesso presidente del Consiglio Berlusconi a convocare il vertice. Saranno presenti i ministri competenti, tra questi il responsabile dell'economia Tremonti, alla base dei malumori di molti esponenti del sud, soprattutto la mancanza, a loro dire, di misure adeguate nel decreto anticrisi che ieri ha ricevuto il via libera della Camera. Da qui la decisione dell'MPA di Lombardo di non votare il testo. Ricordiamo che il documento sarà comunque modificato con un provvedimento successivo, questo per decisione della stessa maggioranza ma anche per i rilievi arrivati dal Quirinale. C'è dunque molto da lavorare all'interno del centrodestra. Il premier ha chiesto il contributo di tutti i suoi ministri. La conferma arriva dalla titolare dell'ambiente Stefania Prestigiacomo. Ascoltiamo le sue parole. Il presidente Berlusconi ci ha chiesto di lavorare un gruppo di ministri a un piano per il sud che ovviamente discuteremo. Non so se la sede sarà quella del Consiglio dei Ministri, però siamo tutti al lavoro per dare le risposte che il Sud si attende, quindi stiamo veramente tutti impegnandoci su questo fronte. Secondo molti esponenti della maggioranza, il braccio di ferro intentato soprattutto dal Movimento per l'Autonomia di Lombardo è mirato all'ottenimento di un ministero. Il diretto interessato oggi però rigetta questa tesi, punta il dito sul nodo dei fondi FAS e minaccia il ricorso a Bruxelles. Sentiamo allora Lombardo. Io non è che sia dialogante, quando il Presidente del Consiglio mi dice faccio un piano Marshall, un piano straordinario per il rilancio del mezzogiorno, immediatamente ci impegniamo sui FAS, ma io dico che francamente registro la svolta con favore, salvo poi non farsene nulla, perché ad esempio posdomani si riunisce il CIPE e potrebbe essere affrontato il nodo del FAS. Se non viene affrontato il nodo del fondo per le aree sottoutilizzate, solleverò l'argomento in sede europea. Lo dico con molta franchezza. Se il governo lo fa, ha fatto una cosa giusta, con molto ritardo, e io ne prendo atto. Questa dunque la posizione di Lombardo, getta acqua sul fuoco delle polemiche del senatore del PDL Dell'Utri, che spiega è tutto in via di soluzione. D'altra parte, dice Dell'Utri, quando delle cose si occupa direttamente Berlusconi, i problemi rientrano. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. Noi ora ci spostiamo in Spagna perché questa mattina è esplosa un'autobomba nei pressi di una caserma della Guardia Civile di Burgos, nel nord del paese. Decine i feriti. Per saperne di più ci colleghiamo con Gabriele Cagliani, che si trova a Madrid. Allora Gabriele, innanzitutto che cosa è successo? Buongiorno, è successo che è esplosa una bomba alle 4 di mattina accanto al quartier generale della Guardia Civile di Burgos, causando per il momento 54 feriti, nessuno di loro grave. Si tratta di una bomba che voleva uccidere perché non c'è stato nessun avviso, come invece nelle consuetudini dell'ETA, e in questo momento non ci sono altri dati sulla dinamica. Ecco, Gabriele, tu facevi riferimento all'ETA, non c'è ancora una rivendicazione ufficiale, ma naturalmente i sospetti degli inquirenti, i sospetti molto, diciamo, fondati, si rivolgono appunto ai separatisti baschi. Assolutamente sì, direi che si può parlare quasi di sicurezza, nel senso che tutta la dinamica fa pensare all'ETA, la Guardia Civile è sempre stata il primo obiettivo dell'ETA, non ci sono dubbi, anzi il Ministro degli Interni poco fa ha parlato esplicitamente dell'ETA come unico possibile autore dell'attentato. Ecco, nelle ultime settimane l'ETA sta tornando a farsi sentire. Questa è un'impressione che abbiamo noi qui dall'Italia o effettivamente sta rialzando un po' la testa, diciamo così, anche perché c'erano stati altri episodi di autobombe, di bombe magari inesplose nelle scorse settimane? Senza dubbio, l'ultimo attentato mortale, tra l'altro, dell'ETA risale al 19 giugno, quando è stato ucciso un alto dirigente della polizia nei Paesi Baschi. E comunque dall'inizio dell'anno ci sono stati 8 attentati dell'ETA, tra piccole bombe anche inesplose, a attentati come ti dicevo mortali. Grazie a Gabriele Cagliani, collegato con noi da Madrid. Per la cronaca noi invece ora andiamo a Milano, precisamente a Rho, dove questa mattina c'è stato un caso di omicidio-suicidio. Piero Amariti e Cristina Messina non andavano più d'accordo da tempo, una coppia sulla via della separazione, liti frequenti, fino all'epilogo di questa mattina, quando l'uomo, 34 anni, atteso che la moglie scendesse dall'abitazione dei genitori in una via periferica di Rho, nel milanese, l'ha affrontata armato di pistola, l'ha freddata con 2 colpi alla tempia e al collo per poi suicidarsi. È accaduto poco dopo le 8, inutili soccorsi, tra i primi ad accorrere proprio i genitori della ragazza, con loro i 2 figli piccoli della coppia. Bravi ragazzi, li descrivono i vicini, ma i parenti di Cristina raccontano una storia diversa, fatta di minacce e aggressioni inutilmente denunciate. Aveva già fatto la denuncia che una mattina era andato lì alle 5:30 e ha minacciato di ammazzarla, però non le ha creduto nessuno, a quanto pare. Scusate. Da quanto tempo? Sarà un paio di settimane, 3. Circostanze su cui gli investigatori cercano ora una conferma. Giovanni Capuano, GR24, Il Sole 24 Ore. Nelle scorse settimane si è tornato a parlare molto delle stragi di mafia del 92, gli omicidi di Falcone e Borsellino. E si sta parlando soprattutto di un patto che ci sarebbe stato fra mafia e Stato per bloccare quelle stragi. Di questo, per esempio, ha parlato il boss Totorina dal carcere attraverso il suo avvocato. Per questo è stata riaperta dalla procura di Caltanissetta l'inchiesta sulla strage del 19 luglio del 92, nella quale, lo ricordiamo, morirono Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta. Oggi però, ed è una notizia riportata dal Corriere della Sera, si viene a sapere che è stata aperta anche un'inchiesta sulle indagini che vennero eseguite 17 anni fa. Alcuni poliziotti che eseguirono quegli accertamenti sarebbero indagati per depistaggio. Le indagini sulla strage di Via D'Amelio potrebbero aver subito un depistaggio fin dalle prime battute. E quanto vogliono accertare i magistrati della procura di Caltanissetta, che hanno iscritto nel registro degli indagati i nomi di 2 o 3 poliziotti che fecero parte del gruppo investigativo Falcone e Borsellino, formato subito dopo le stragi proprio per condurre le inchieste. A indurre i PM Nisseni a tentare di andare a fondo a questa inquietante vicenda sono state le dichiarazioni del pentito Gaspare Spatuzza, che si è autoaccusato del furto della Fiat 126 usata come autobomba in Via D'Amelio. Affermazioni queste che avrebbero trovato riscontri. Del furto si era accusato 17 anni fa Salvatore Candura, che ora ai magistrati nisseni avrebbe detto di essersi inventato tutto. Anzi, ha sostenuto che allora disse di aver riferito ai PM quanto alcuni poliziotti lo erano costretto a dire. Il falso, cioè. Ma il pentito principale dei 3 processi per la strage Borsellino, divenuti ormai definitivi, Vincenzo Scarantino, messo faccia a faccia con Spatuzza, ha confermato tutto, e cioè di essere stato lui a far rubare a Candura l'auto poi esplosa in Via D'Amelio. Sul fronte dell'inchiesta sulla strage Borsellino, nell'ambito della quale sarebbero indagate una decina di persone, fra le quali uomini dei servizi segreti, i PM nisseni sono adesso alla caccia dello 007 con il viso deformato di cui avrebbe parlato il pentito Angelo Fontana. Giampiero Casagni, GR24. Il Sole 24 Ore, Palermo. E l'educazione alla legalità, ma anche l'educazione all'ambiente, potrebbero diventare presto materia di studio a scuola. I ministri Prestigiacomo e Gelmini hanno firmato questa mattina un protocollo di intenti. Ce ne parla in diretta da Roma Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. Un progetto che riguarda le scuole dell'infanzia e le scuole primarie. Obiettivo appunto è quello di educare alla ecolegalità e allo sviluppo sostenibile. Una carta di intenti lo prevede, è stata firmata questa mattina tra i ministeri dell'ambiente e dell'istruzione e prevede uno stanziamento di 1 milione di euro. Si articolerà con una serie di iniziative che partiranno a settembre, tra cui i concorsi su temi come il riciclo dei rifiuti, la lotta alle ecomafie, il consumo sostenibile. I vincitori verranno poi utilizzati per una campagna di comunicazione dei 2 ministeri che partirà nel 2010. Alessandra, naturalmente essendo presente il ministro dell'istruzione Gelmini, non si poteva non parlare della proposta della Lega, lo ricordiamo, quella di modificare la riforma della scuola introducendo un test di dialetto per i professori, affinché insomma conoscano le tradizioni della regione dove vogliono insegnare. Che cosa ha detto la Gelmini a riguardo? intervenuto il ministro, però ne ha parlato con l'intento di ridimensionare la polemica. Ha detto non esiste nessuna distanza tra PDL e Lega sulla scuola. Ieri ha precisato in Commissione Cultura della Camera si stava discutendo di un DDL e non della riforma del governo. Comunque in generale dice c'è condivisione sul tema della valorizzazione delle tradizioni popolari, ma sentiamo il ministro. Forse c'è stato un problema di comunicazione o di gestione dei lavori della Commissione Scuola. L'onorevole Goisis della Lega ha posto non solo il tema dello studio a scuola, delle tradizioni locali e del dialetto, ma ha posto un tema estremamente importante che è quello della continuità didattica, cioè del dovere della scuola di garantire la presenza degli stessi professori per tutto l'anno scolastico e possibilmente per il biennio. Questa proposta è condivisa da tutta la maggioranza, si tratta di capire come declinarla e è allo studio una proposta per legare la docenza al territorio. Per quanto riguarda lo studio delle tradizioni locali e del dialetto, sarà un tema che verrà, sappiamo che è caro alla Lega, e verrà affrontato in sede di revisione dei programmi. Sì, una polemica che sembra rientrare anche perché la Lega stessa, per bocca del capogruppo alla Camera Roberto Cota, ha bollato come bufala e frutta di polemiche inutili lo scontro sui test. Il punto, dice Cota, è quello di valorizzare le culture territoriali, mentre sui giornali è stata fatta una banalizzazione riducendo tutto alla questione dei dialetti. E da Roma è tutto, a voi. Grazie Alessandra Schepisi. Ci sono ancora disagi. Questa mattina all'aeroporto napoletano di Capodichino va infatti avanti la protesta dei dipendenti dell'Atitec, la società di gestione dello scalo, che questa mattina hanno bloccato alcuni check-in. In diretta da Napoli, Enzo Danna, che cosa succede? Sì, buongiorno. Dopo i blocchi dei giorni scorsi, quando avevano occupato la strada di accesso all'aeroporto, costringendo i passeggeri ad andare a piedi, i lavoratori dell'Atitec, una quarantina circa, hanno portato la protesta all'interno dello scalo, impedendo di fatto le operazioni di check-in di Alitalia e Air One. 12 al momento i banchi di accettazione occupati dai manifestanti, che non escludono di bloccare anche quelli delle altre compagnie. La protesta dei dipendenti è scattata lunedì mattina dopo l'annuncio da parte dell'azienda che non saranno garantiti gli stipendi di luglio e che in assenza di novità la società, che ricordiamo è l'ex polo di manutenzione della vecchia Alitalia, chiuderà i battenti a fine mese. Atitec dà lavoro a circa 700 persone. Da Napoli ho concluso. Grazie Enzo Danna, naturalmente ci terrai aggiornato anche nelle prossime edizioni del GR24, appunto su questa protesta che sta bloccando i check-in a Capodichino. Arriva il primo agosto sul canale 620 di Sky, è una nuova rete che già sta facendo discutere. Colori vivaci, voci rassicuranti, musiche allegre. The itsy bitsy spider went up the water spout. È irresistibile, bisogna ammetterlo, la programmazione di Baby TV. Nata in Israele nel 2003, fondata da Lilian Talit e Ron Isaac, nel 2007 ha cominciato a trasmettere in Gran Bretagna. Nell'ottobre 2008 è stata acquistata da Fox e adesso c'è l'approdo italiano, dal 1 agosto. Ed è destinata a far discutere proprio perché è così carina, deliziosa e dedicata ai bambini dagli 0 ai 3 anni, quindi piccolissimi. Today is my birthday, a special day. Non vogliamo che sia una babysitter elettronica che si sostituisce all'attenzione dei genitori, si difende Fox dalle accuse che stanno già piovendo sul canale. Immancabile e tempestivo l'intervento del Moige, che parla di gravi rischi inerenti alla crescita fisica e psicologica di neonati e bambini fino ai 36 mesi. Da Sky intanto si replica che già da anni è attivo un canale Rai, RaiSat Yo-Yo, con lo stesso target, e che tutti i contenuti di Baby TV sono realizzati con la consulenza e la supervisione di un pool internazionale di psicologi dell'età evolutiva e dello sviluppo infantile. Ma soprattutto la programmazione è completamente priva di pubblicità e di informazioni commerciali di alcun tipo. Tenendo conto del fatto che la fascia d'età non è monitorata dagli ascolti, perché allora questo investimento? Ma per fidelizzare dalla culla i microspettatori, che poi passeranno ad altri canali, e per rafforzare il bouquet, cioè per convincere i genitori ad acquistare abbonamenti. Un pacchetto tira un altro. Il ruolo dei genitori e dell'educazione al corretto uso dei media è sempre, sempre più importante. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, sono le 13 e 16 minuti. Nella prima parte abbiamo parlato del vertice che inizierà fra poco a Palazzo Grazioli, la residenza romana di Silvio Berlusconi, fra il Premier e alcuni ministri. Si parlerà del piano per il Sud. Prepareranno sostanzialmente una bozza che porteranno venerdì nel Consiglio dei Ministri per avere un primo parere. Abbiamo poi parlato dell'autobomba che è esplosa questa mattina nel nord della Spagna. Ci sono decine di feriti. Al momento non c'è alcuna rivendicazione, ma naturalmente i sospetti più che fondati sono rivolti all'ETA, ossia ai separatisti baschi. E poi abbiamo parlato dell'omicidio suicidio di questa mattina a Roa, alle porte di Milano. Un uomo ha ucciso la moglie in strada e poi si è tolto la vita. E ancora i disagi che ci sono da questa mattina nell'aeroporto napoletano di Capodichino per la protesta dei dipendenti della società di gestione dello scalo. Ed è notizia di poco fa che ci sono stati momenti di forte tensione, addirittura alcuni scontri fra i lavoratori appunto dell'Atitec, che protestano, lo ricordiamo, perché rischiano di non prendere lo stipendio già dal mese di luglio, hanno bloccato i check-in e ci sono stati quindi questi momenti di tensione e di scontri con la polizia, che è in assetto antisommossa. Ora veniamo invece a una questione di cui si sta parlando molto sui nostri giornali in campagna elettorale per le europee. L'ex PM di Catanzaro Luigi De Magistris, candidato per l'Italia dei Valori, aveva promesso: se verrò eletto lascerò la toga. De Magistris è diventato deputato a Strasburgo, ma quella toga non l'ha ancora lasciata. Il CSM, che è l'organo di autogoverno della magistratura, ha accolto una sua specifica richiesta e lo ha collocato in aspettativa a partire dal 14 luglio scorso e per tutta la durata del mandato politico. Buongiorno Luigi De Magistris. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, lei sulla sua pagina di Facebook scrive: il mestiere di magistrato che ho svolto per 15 anni non è un abito che si dismette e si getta via. Questo va bene, ma insomma non pensa di aver tradito i suoi elettori non avendo appunto lasciato ancora questa toga? Ma non l'ha letto integralmente il mio messaggio, io addirittura in campagna elettorale... Abbiamo citato una parte, insomma. Addirittura in campagna elettorale ho detto che anche se non venivo eletto lasciavo definitivamente la magistratura. Allora, il mio messaggio è chiaro: io non farò più il magistrato, mi dimetterò molto prima di quello che potete immaginare, ma siccome non saranno dimissioni né spettacolari, ma nemmeno in stile burocratico, io in quella lettera di dimissioni dovrò indicare precisamente anche chi saranno i responsabili morali e istituzionali della mia cacciata dalla magistratura. È stato un fatto senza precedenti nella storia giudiziaria del nostro paese, non dovrà passare sotto silenzio ed è per questo che io sto scegliendo tempi e modi opportuni affinché il paese, non solo il paese, sappia qual è lo stato di salute della magistratura del nostro paese. Scusi la domanda ingenua, ma questi tempi in cosa consistono? Sono molto rapidi, guardi, poi non capisco perché tutta questa preoccupazione. Io comprendo che i poteri forti tentino maldestre operazioni mediatiche perché hanno paura del progetto politico che stiamo portando avanti, ma i tempi delle dimissioni non me li faccio scandire né dal Corriere della Sera, né da Mancino e né da altri. Sono tempi miei, tra l'altro, come lei sa, ci sono tantissimi magistrati in politica che rientrano anche in magistratura e di questi nessuno si occupa. Potrei citare Scalfaro, potrei citare Ayala, Carofiglio e tanti altri, ma io non voglio essere come loro. Io mi dimetterò, lo farò molto presto, ma devo indicare con precisione le modalità di queste dimissioni e li sceglierò io. Senta, veniamo a un altro tema scottante. Lei tra l'altro poco fa citava Nicola Mancino, lo ricordiamo, attuale vicepresidente del CSM. Il tema a cui mi riferisco sono le indagini sulle stragi di mafia del 92, di cui abbiamo parlato anche nella prima parte del GR Extra Large. Lei ha accusato Mancino, che all'epoca era ministro dell'interno, di essere stato ambiguo e inquietante su quelle stragi e di aver contribuito a fermare alcune inchieste sui rapporti fra mafia e politica. Innanzitutto ci conferma queste sue dichiarazioni e perché le ha fatte? Insomma, che elementi ha per dire queste cose? La ringrazio di questa domanda perché da tanti mesi, forse da anni, che tantissime persone del fronte antimafia, compreso Salvatore Borsellino, il fratello del giudice Borsellino, tanti di noi, stiamo chiedendo a Mancino di fare chiarezza, ma non solo a lui, a tante persone delle istituzioni che in quegli anni hanno avuto un ruolo apicale. Questa chiarezza non è arrivata, quindi questo, voglio dire, è un fatto a mio avviso molto inquietante e noi continuiamo a chiedere, come dire, semplicemente che si dica la verità. La reazione scomposta che che c'è stata di fronte a questa mia richiesta molto semplice di verità da parte del mondo politico, mi riferisco a una parte consistente del Partito Democratico, conferma la mia opinione che in questo momento commissioni parlamentari sulle stragi non si possono fare, perché se la politica assolve la politica prima ancora che si faccia un processo di chiarezza al di là delle responsabilità penali, la dice lunga sul fatto che solo la magistratura ordinaria, una magistratura ordinaria seria e preparata, può far luce veramente sulle stragi. E poi su Mancino mi permetta di dire, io ho visto come ha operato il Consiglio Superiore della Magistratura, la sezione disciplinare, nel fermare non solo la mia persona ma anche un intero ufficio giudiziario che stava procedendo a accertamenti molto seri, quindi onestamente io da cittadino, da ex magistrato e da uomo politico ho grandi diffidenze in questa persona, è un'opinione personale ma legittima. Un'altra vicenda calda che in qualche modo la interessa, lo ricordiamo brevemente agli ascoltatori, l'ex procuratore di Salerno Luigi Apicella si è dimesso, era stato protagonista a gennaio insieme appunto ai magistrati di Catanzaro della cosiddetta guerra fra procure. Apicella ha lasciato la toga, rinuncia ad essere trattenuto in servizio fino al 75esimo anno di età, già sospeso dal CSM. Il magistrato ha scritto anche a Napolitano dicendo: la sanzione che ho subito incrina la mia fiducia nella giustizia. Cosa ne pensa? Guardi, questa è un'altra pagina buia, tra le più oscure del Consiglio Superiore della Magistratura, di cui è vicepresidente Mancino. Parliamo di un procuratore che per aver messo un visto su un atto giudiziario viene sospeso dalle funzioni e dallo stipendio, quando abbiamo attualmente, mentre io sto parlando con gli e con gli altri ascoltatori, magistrati indagati per reati gravissimi, tra cui corruzione, che stanno ai loro posti, che dirigono uffici giudiziari e dei quali il Consiglio Superiore della Magistratura evidentemente si disinteressa. Questi sono fatti gravi, oggettivi e precisi. L'inchiesta di Salerno è stata fermata, se quelle inchieste andavano avanti a quest'ora il paese avrebbe fatto dei passi molto avanti nella verità, proprio negli intrecci tra mafia politica e poteri occulti e massonerie deviate. Grazie Luigi De Magistris per essere stato con noi, naturalmente ci risentiremo a questo punto quando deciderà operativamente di lasciare la magistratura. Noi veniamo ad un'altra questione giudiziaria, ossia l'inchiesta della Procura di Bari sul presunto giro di escort fornite dall'imprenditore barese Tarantini a Silvio Berlusconi. Questa mattina Patrizia D'Addario è stata al Palazzo di Giustizia di Bari. Sentiamo perché. Si è presentata in procura a Bari con un abitino nero, occhiali da sole scuri, passo deciso, sicura di sé. Patrizia D'Addario, la donna che ha dichiarato di aver trascorso alcune serate in residenza privata del Premier, è andata accompagnata da una collaboratrice dello studio legale che la rappresenta dritto al quarto piano del Palazzo di Giustizia di Via Zariante, dove, tra gli altri, c'è anche l'ufficio per il deposito delle denunce. Un piano sotto c'è la stanza del PM inquirente Giuseppe Scelzi, che indaga anche su un presunto giro di escort che avrebbero partecipato ad alcune feste, tra loro per sua stessa missione la stessa 42enne barese che per qualche giorno ha lasciato il suo buon ritiro parigino per tornare a Bari. Dalla capitale francese nei giorni scorsi aveva dichiarato ad una settimanale di aver abbandonato la sua vecchia professione, un libro e serate in Francia e Spagna i suoi progetti per l'immediato futuro. Difficile che abbia depositato al Trinastri o registrazioni di colloqui con l'imprenditore barese Giampaolo Tarantini o con il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Di quelle conversazioni ormai si è detto tutto. Più probabile che la D'Addario questa mattina abbia intrapreso azioni giudiziarie a tutela della propria immagine. Le critiche, anche pesanti, nei suoi confronti non sono certo mancate. Giovanni Longo, GR24, Il Sole 24 Ore, Bari. Vi siete mai chiesti quali sono i mestieri che reggono, insomma, che vanno per la maggiore o che almeno insomma non sono così in crisi in un tempo di crisi economica? Bene, questa domanda se l'è fatta Union Camere, che ha così elaborato una ricerca. Andrea Viali, che cosa è emerso da questa ricerca? Sì, Alessandra, è emerso essenzialmente che i tre settori in cui oggi è più facile trovare un lavoro sono quelli della salute, dell'innovazione e dell'energia. Parliamo di lavori quindi come infermieri o fisioterapisti, come programmatori o sviluppatori informatici, oppure diciamo tutti quei lavori che hanno in qualche modo a che fare con il risparmio energetico e la tutela dell'ambiente. Ecco, queste figure professionali sono quelle più ricercate in questo momento dalle aziende, quelle diciamo che le aziende fanno più fatica a trovare in questo periodo, stando naturalmente a questo studio studio che è stato realizzato da Unioncamere in collaborazione con il Ministero del Lavoro. Ecco, in base a questa ricerca, che tiene conto dei dati che sono stati forniti a Unioncamere da oltre 100.000 imprese, il 2009 si chiuderà comunque con un calo dell'occupazione, un calo dell'1,9%, che corrisponde circa a 213.000 posti di lavoro persi. In questo contesto di ridimensionamento, comunque, secondo Unioncamere sarà più facile trovare un lavoro per le figure professionali che hanno, diciamo, un profilo maggiormente qualificato, mentre è previsto un calo delle assunzioni di operai o assemblatori o conduttori di impianto, quindi figure professionali meno qualificate. Ecco, questo naturalmente secondo questo studio di Unioncamere. Dalla sede di Unioncamere è tutto, ti restituisco la linea. Grazie Andrea Viale. Noi adesso andiamo in Francia per vedere come la Francia si sta organizzando per cercare di battere la crisi. Lì hanno deciso di incentivare la nascita di piccole imprese. Ce ne parla il nostro corrispondente da Parigi. È uno degli effetti collaterali della crisi, ma una volta tanto positivo, che obbliga e sta obbligando centinaia di migliaia di francesi a difendersi, rimettersi in discussione e in molti casi a reinventarsi un mestiere. Dall'inizio dell'anno sono nate in Francia 182.000 imprese individuali, un vero e proprio fenomeno sociale reso possibile dal nuovo regime di autoimprenditore, una formula studiata dal Ministero dell'Economia e che permette di mettersi in proprio a chiunque lo desideri, basta aver compiuto 18 anni, in una decina di minuti e qualche clic sul sito appositamente creato www.lotoentrepreneur.fr. Servizi alla persona, compravendita online, consulenza strategica alle aziende, consulenza informatica. Sono queste le attività più diffuse che permettono a molti francesi o di uscire dalla disoccupazione o di arrotondare la fine del mese. Anche chi ha già un lavoro può creare la sua impresa individuale con questo dispositivo, anche chi è pensionato o funzionario pubblico. La formula vincente, oltre all'estrema semplicità, sta nel fatto che non si cominciano a pagare tasse e contributi se prima non si guadagna. Dunque lo slogan niente reddito, niente oneri funziona davvero e alla fine dell'anno il piccolo esercito degli autoimprenditori non sarà più tanto piccolo. A questi ritmi 300.000 contro i 200.000 previsti all'inizio. Attilio Geroni, GR24, Il Sole 24 Ore, Parigi. E veniamo a due aziende italiane, Coin e Upim. Buongiorno a Monica D'Ascenzo, insomma la collega del Sole 24 Ore che spesso interviene anche nelle nostre trasmissioni di Radio 24. Oggi una tua anticipazione sul Sole: Coin sta corteggiando Upim. Allora c'è un matrimonio in vista? Innanzitutto buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Coin sta corteggiando Upim ormai da 2 anni, diciamo che la prenderà per sfinimento. La prende alla larga proprio. Esatto. No, aveva già fatto un'offerta lo scorso anno di 180 milioni che era stata rifiutata perché è ritenuta bassa. Chiaramente la situazione del mercato è molto cambiata rispetto a un anno fa, quindi bisognerà vedere quali saranno i termini di una nuova offerta, se sarà fatta. E Upim d'altro canto si trova a dover rinegoziare il debito con le banche, quindi non è una situazione così florida come poteva essere un anno fa, e probabilmente il matrimonio con Coin ha delle ragioni in più per essere fatto rispetto al periodo pre-crisi. Insomma, un matrimonio che sa da fare, per insomma parafrasare un vecchio detto. E se questo matrimonio appunto dovesse essere consumato, che cosa ne verrebbe fuori? Insomma, un po' di numeri: sarebbe quasi un monopolista nel settore della grande distribuzione. Beh, non a questo livello. Allora, ricordiamo innanzitutto quali sono i due poli in questo momento, perché Upim fa parte del gruppo rinascente Upim e Coin invece ha già acquistato OVS e 60 punti vendita di Mela Blu, che è l'abbigliamento diciamo a basso costo, comprati lo scorso autunno. Quindi questi sono i due poli al momento. Coin sta corteggiando solo Upim, quindi Rinascente non rientrerebbe nell'operazione, perché Upim ha 140 negozi propri e 257 all'incirca affiliati, per vendite che arrivano intorno ai 500 milioni. Quindi diciamo conquistando Upim conquisterebbe una fetta di mercato importante, che oltretutto andrebbe a completare il portafoglio di prodotti, perché OVS, ricordiamolo, è economico, Coin è diciamo una fascia più alta di prodotto, medio-alta. Upim invece sarebbe al centro e completerebbe i prodotti offerti dal gruppo. Grazie a Monica D'Ascenzo. Noi ora ci spostiamo a Roma per i mondiali di nuoto. Dario Ricci, il nostro inviato al Foro Italico. Allora, oggi potrebbe essere la giornata di Magnini e Pellegrini? Ma sì, buongiorno dal Foro Italico, soprattutto quello di Federica Pellegrini, che è impegnata in questa serata nella finale dei 200 metri stile libero. Entra con lo spettacolare record del mondo stabilito ieri in semifinale Federica, quindi inevitabilmente ha tutto il peso e i favori del pronostico sulle spalle, ma ha già dimostrato di saper ben gestire la pressione, Alessandra. Invece per quanto riguarda Filippo Magnini, altrettanto attesa la sua prova, perché prima della finale di Federica, impegnata alle 18.31 nella vasca del Foro Italico, Filippo scenderà in acqua alle 18.02 per le semifinali dei 100 metri stile libero. Stamattina si è qualificato col 13° tempo, nulla d'eccezionale, ma si sa, nelle qualificazioni i campioni cercano un po' di risparmiare le energie, studiare un po' gli avversari, prendere confidenza con l'acqua e con le proprie sensazioni, quindi qualificazione in tutto relax e col freno a mano tirato, ma stasera sarà invece prova senza appello. E poi in chiusura di serata alle 19.23 faremo anche il tifo per Federico Colbertaldo, impegnato in una finale degli 800 metri stile libero, in cui chissà, magari potrebbe anche puntare a un bronzo. GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. Vertice di Berlusconi con alcuni ministri sul piano per il Sud, che era stato annunciato nei giorni scorsi dallo stesso Premier. Si sta preparando una bozza da portare venerdì in Consiglio dei Ministri per un primo esame. L'esplosione dell'autobomba nel nord della Spagna, sarebbero almeno una cinquantina i feriti. Non c'è ancora alcuna rivendicazione ufficiale, ma naturalmente tutti i sospetti sono puntati sull'ETA. C'è stato un omicidio-suicidio a Rho, vicino Milano. Questa mattina un uomo ha ucciso la moglie in strada, poi si è tolto la vita. Poi ci sono forti disagi all'aeroporto napoletano di Capodichino, perché i dipendenti della società di gestione, che protestano perché a luglio non prenderanno lo stipendio, hanno bloccato alcuni check-in, soprattutto di Alitalia e Air One. Ci sono stati momenti di tensione con i poliziotti, che sono in assetto antisommossa. La BMW ha annunciato: alla fine della stagione abbandoneremo la Formula 1. I vertici parlano anche di ragioni ecologiste. Vedremo fra poco se effettivamente sono reali queste motivazioni. E poi i mondiali di nuoto di Roma, lo abbiamo sentito poco fa dal nostro Dario Ricci, si aspetta il bis della Pellegrini nei 200 stile libero. La finale sarà nel pomeriggio. Ma ora veniamo alle parole che ha pronunciato questa mattina in aula alla Camera il ministro dell'Economia Giulio Tremonti. Sostanzialmente ha difeso e l'ha fatto con forza l'azione di governo. È stato detto che altri paesi hanno fatto di più. È assolutamente vero, molti paesi hanno fatto di più. Ma hanno fatto di più come interventi pubblici per stabilizzare il loro sistema bancario e finanziario. Ci si dice il debito e il deficit italiani. Per la prima volta negli anni recenti il profilo, la dinamica del deficit e del debito italiano è sotto la media europea. E questi sono i numeri che si acquisiscono in Europa. E ricordiamo che l'Aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sul DPEF. I voti a favore sono stati 254, 233 quelli contrari, 2 deputati si sono astenuti. Diminuiscono ancora traffico e polveri sottili a Milano dopo l'introduzione dell'Ecopass. Il ticket per l'ingresso in città resta però al centro delle polemiche. Questa mattina sono stati presentati i dati relativi al primo semestre del 2009. E così Micaela Nasca ha intervistato Edoardo Croci, assessore alla mobilità e ai trasporti di Milano. Il traffico cittadino nell'area interna ai bastioni ha avuto una riduzione del 14,4% rispetto al periodo pre-Ecopass, quindi rispetto a una situazione che avremmo senza Ecopass, che equivale a togliere circa ogni giorno circa 15.000 autoveicoli, mentre nell'area esterna, l'area Ecopass dei bastioni, si conferma pure una riduzione, addirittura una riduzione che cresce. Precedentemente nel 2008 2018 era del 4,9%, adesso è arrivata al 6,8%. Se facciamo un paragone col 2008, il traffico cittadino a Milano è diminuito di 2 punti percentuali, nell'area Ecopass di un solo punto. Un dato in linea con le aspettative? In realtà noi prevedevamo, se devo essere tutto sincero, che ci fosse una riduzione dell'effetto di Ecopass nel 2009 rispetto al 2008 proprio per il rinnovo del parco auto. Questo non è avvenuto, c'è un pieno mantenimento dei risultati importanti, risultati importantissimi del 2008, perché un meno 14,4 nell'area centrale è un risultato molto importante, e addirittura c'è anche un'ulteriore lieve riduzione del traffico, in particolare nell'area esterna. Parliamo invece di inquinamento. Nel 2009 le emissioni di PM10 da traffico sono diminuite del 22%, mentre nel 2008 la riduzione era stata del 19%. Ecco, in questo caso il risultato era atteso? Questa maggiore efficacia era attesa proprio perché c'è un rinnovo del parco autoveicolare anche indotto da Ecopass, e quindi sul lato, diciamo, ambientale ci attendevamo in effetti un ulteriore miglioramento. Il 2009 si dimostra nella storia di Milano finora, nel primo semestre, il migliore in termini di qualità dell'aria. Tra l'altro la fatidica soglia dei 50 microgrammi al metro cubo, che è il limite a cui dobbiamo tendere, ha avuto nel 2009, dovremmo tendere ad avere 35 giorni, siamo arrivati a 54 giorni di superamento nel 2009, che però è il miglior risultato per la nostra città. In passato anche il 2008, che a questo punto è il secondo miglior risultato, era 60 giorni, guarda caso proprio i 2 anni in cui c'è Ecopass sono i 2 anni migliori in termini di qualità dell'aria a Milano. Questo dato, questo record dei 54 giorni di sforamento, servirà a convincere gli esponenti della stessa maggioranza e i cittadini che finora hanno contestato il provvedimento? Ma a dire la verità mi sembra che pochi abbiano contestato il provvedimento in questi giorni. Più che altro c'è stata, sulla base di un sondaggio che è stato pubblicato da un quotidiano, si è aperto un po' in dibattito, ma dove giustamente la maggior parte dei soggetti è stata molto prudente, perché si è detto che dare un giudizio deve basarsi su dei dati. Il rapporto è disponibile da oggi, quindi credo che da oggi potranno esserci dei commenti informati e anche una valutazione oggettiva dei cittadini. Chi si è esposto nei giorni scorsi, evidentemente senza avere i dati, ha rischiato di dire anche qualche stupidaggine. La Lega chiede un vero e proprio referendum, non solo su Ecopass, ma addirittura su 3 anni di politica del traffico. Si tratta solo di un'ipotesi o di una reale possibilità, e lei cosa ne pensa? Ma diciamo che alcuni personaggi della Lega ci hanno abituato a volte a toni accesi, fatti apposta forse per cercare di fare titoli sui giornali. Ricordiamo che questo provvedimento è stato votato da tutta la maggioranza in giunta, compresa la Lega. Come mai non si pensa di estendere l'Ecopass anche ai ciclomotori, molti dei quali più inquinanti delle auto? Non è facile, nel senso che bisogna essere sempre realistici. È un sistema che si basa su telecamere e i ciclomotori hanno una possibilità, diciamo, di deviare dal campo ottico la telecamera con grande facilità. Abbiamo l'esperienza di altre città come Genova, dove questo avviene sempre. Quindi bisogna poi avere i sistemi di controllo in grado effettivamente di funzionare. Questo è il primo motivo. Il secondo motivo è che tutto sommato c'è, anche con gli incentivi che ha messo a disposizione il governo, c'è un forte ricambio in questo momento del parco dei ciclomotori. Un ciclomotore comunque ingombra molto meno di un'auto, quindi bisogna anche tener conto degli aspetti positivi, voglio dire, che ci sono nell'uso di un veicolo più piccolo. A sostenere il ticket per l'ingresso in città anche i Verdi, quindi una forza di centrosinistra. I Verdi che però chiedono di fare qualcosa di più. Come si muoverà l'amministrazione? Beh, l'amministrazione lavora per i cittadini e quindi voglio dire che ci siano maggioranze, anche esponenti dell'opposizione a favore, può solo fare piacere. Questi sono provvedimenti che valgono per tutti i cittadini al di là del colore politico, quindi ogni stimolo che arrivi dalle diverse parti è assolutamente gradito, e credo anzi che su certi temi sia bene non fare polemica politica, ma cercare di contribuire tutti a trovare soluzioni per la città. E questo era Edoardo Croce, assessore alla mobilità e trasporti di Milano, intervistato da Micaela Nasca sulla questione dell'Ecopass. Ora, dalle auto normali, quelle che usiamo in città, a quelle da corsa. Perché? Perché la BMW ha annunciato questa mattina che abbandonerà la Formula 1 al termine di questa stagione. Il presidente del consiglio di amministrazione della casa automobilistica tedesca ha anche precisato che alla base di questa decisione ci sarebbero anche delle motivazioni ecologiste. Carlo Genta, tu lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, conduci il programma Tempo di Sport, quindi segui anche la Formula 1. Quante sono reali queste motivazioni? Ma se magari in Formula 1 metteranno l'Ecopass come a Milano, non lo so, però reali non sarebbe male. Non sarebbe male. Quello che ha detto appunto Norbert Reithofer, presidente del consiglio di amministrazione di BMW, è questo: alla base della nostra decisione di abbandonare la Formula 1 alla fine di questa stagione ci sono motivazioni ecologiste, anche motivazioni ecologiste, e dice: questo è il logico passo compiuto sullo sfondo del riposizionamento strategico della nostra impresa, eccetera eccetera eccetera. Non so se sia vero reale, vera e reale la classifica che dice che la BMW quest'anno è andata male, malissimo, mai così male, 8 punti in 10 gare, terz'ultima nella classifica costruttori, e dunque insomma sta collezionando una galleria di figuracce, soprattutto nei confronti delle altre grandi case automobilistiche impegnate nel mondiale, anche se quest'anno Mercedes non è andata benissimo. Mercedes comunque ha detto: ci dispiace molto che BMW, nostra concorrente, abbia deciso di ritirarsi dalla Formula 1, noi non ci pensiamo nemmeno, andremo avanti. Carlo, rapidamente un'altra questione di Formula 1, lo ricordiamo, l'incidente di Felipe Massa durante le prove della Gran Premio d'Ungheria. Innanzitutto, quali sono le sue condizioni, e poi se la Ferrari effettivamente sta pensando a una sua sostituzione? Deve pensarci per forza, anche se Felipino sta rapidamente migliorando. Oggi le notizie sono sempre più confortanti, quelle che arrivano da Budapest: ha chiesto di mangiare, parla, muove la mano e la gamba. Secondo il suo medico personale può essere dimesso già domani e volerà a Parigi nella clinica privata del professor Sayan, ben noto per aver operato grandi campioni del calcio. Sta sempre meglio, però ovviamente sì, c'è un volante importante che deve essere occupato. Rimangono sempre in piedi, anche se sembrano in calo le quotazioni, della ipotesi più suggestiva, quella di Michael Schumacher, poi ci sono Genet e Badoer, che sono i due collaudatori, ed è l'ipotesi più probabile, anche se potrebbe esserci l'idea di far debuttare al volante della rossa uno dei tanti giovani rampanti che sono soprattutto nel GP2, la serie B dei motori. Staremo a vedere allora. Grazie Carlo Genta, ti risentiamo naturalmente in A Tempo di Sport. Giulia Crivelli, rapidamente giornali stranieri, andiamo alle Figaro per l'influenza, per la nuova influenza. Sì, diciamo che la paura non finisce, ecco, l'apertura di Le Figaro è proprio sull'influenza, quindi l'influenza A, e si spiegano nei dettagli qual è testualmente il piano di battaglia del governo per il rientro, naturalmente il rientro dalle vacanze per chi è andato in vacanza, e poi naturalmente la riapertura delle scuole, che hanno un calendario abbastanza simile al nostro, anche se riaprono un po' prima. Il ministro della sanità Bachelot ha naturalmente spiegato che ci saranno a disposizione medicinali in quantità più che sufficiente, e appena pronto il vaccino sarà fornito gratuitamente, quindi un tentativo di spiegare che il piano c'è, naturalmente di fare in modo che non ci siano forme di panico per questa influenza, che lo ricordiamo per l'ennesima volta, il virus è un virus viaggiatore, si sposta molto velocemente. Si sposta facilmente, ma è di bassa, infatti, esatto. È di bassa entità e soprattutto curabile. Il futuro della BBC? Questa è una bella pagina di approfondimento su Financial Times, una pagina intera intitolata Closing Credits, quindi chiusura del credito, i conti si stanno chiudendo. La BBC, come la RAI, come altre televisioni statali, gode del canone, quindi è rimasta forse più di altre televisioni, perché ha sempre puntato sulla qualità, immune da questo grande uragano che si è abbattuto sui media di tutto il mondo, la crisi della pubblicità. Si chiede però a Financial Times, potrebbe non bastare, c'è in corso la rivoluzione digitale nel nostro paese, ma anche in tutta Europa, la BBC potrebbe non essere pronta, perché quello che succede quando si è troppo tutelati o quando si hanno questi paracaduti è che forse non ci si rende conto che il mondo sta cambiando e che la tecnologia sta cambiando, e che anche se i conti non sono in rosso bisogna prepararsi appunto al cambiamento. Riprende il GR Extra Large, lo fa con il rapporto 2009 sulla pena di morte nel mondo, che è stato presentato oggi a Roma da Nessuno Tocchi Caino, rapporto dal quale emerge che fortunatamente sono sempre di più i paesi nel mondo che decidono di abolire la pena capitale. Cina, Iran e Arabia Saudita sono questi i paesi che guidano la blacklist per maggior numero di esecuzioni capitali nel mondo nel 2008. Sul podio negativo la Cina, con almeno 5.000 esecuzioni. Segue l'Iran, con 346 sentenze di morte eseguite, tra cui quelle di 13 minorenni. E poi l'Arabia Saudita, dove l'anno scorso almeno 102 persone sono state condannate. Questa è la mappa della morte di Stato tracciata dall'ultimo rapporto di Nessuno Tocchi Caino, la ONG per la difesa dei diritti umani, in prima linea nella lotta alla pena di morte nel mondo. La buona notizia, spiega la curatrice del rapporto Elisabetta Zamparutti, è che i paesi che mantengono la pena di morte sono scesi a 46 a fronte dei 49 del 2007. Il dato che continua a preoccupare è l'entità delle esecuzioni compiute, che sono state almeno 5.727, comunque in calo rispetto all'anno precedente. Il continente dove si praticano più esecuzioni nel mondo è l'Asia. In Africa nel 2008 la pena di morte è stata eseguita solo in 5 paesi. In Europa la Bielorussia è l'unica nazione che applica la pena capitale. Le Americhe sarebbero un continente praticamente libero dalla pena di morte, se non fosse per gli Stati Uniti, dove però le cose stanno cambiando. Gli Stati Uniti continuano a registrare un calo del numero di esecuzioni, che nel 2008 sono state 37, il numero più basso dal 99, quando venne raggiunto il numero record di 98 esecuzioni. E gli Stati Uniti, con un processo lento ma irreversibile, sta procedendo verso l'abolizione. Il bilancio, sottolinea il rapporto, è comunque un conteggio in difetto, dato che in alcuni paesi, tra cui Cina, Vietnam, Bielorussia e Mongolia, le esecuzioni sono protette dal segreto di Stato e in molti altri le notizie filtrano da fonti non ufficiali. Valentina Furlanetto, GR24, Il Sole 24 Ore. E a proposito di diritti umani, qualche settimana fa vi avevamo raccontato la storia di alcune donne sudanesi condannate a diverse frustate per aver indossato i pantaloni in un locale pubblico. Fra loro c'era anche una nota giornalista che però aveva respinto l'accusa. Oggi la sentenza di Bufati Ali. Nessuna notizia ancora dal Sudan sulla sorte della giornalista che rischia le frustate per avere compiuto un atto osceno in pubblico, cioè quello di aver indossato un paio di pantaloni in un ristorante. Molto grave questo per i poliziotti sudanesi devoti alla legge islamica che non ammette trasgressioni di sorte. Ieri è stata la stessa donna a far sapere ai giornalisti di aver ricevuto una telefonata dalle autorità che la ordinavano di comparire davanti ai giudici alle 10 di stamani. Lubna Hussein, che scrive per un giornale di sinistra e lavora con la missione dell'ONU nel suo paese, è stata arrestata, come sapete, 3 mesi fa. Altre 10 donne che erano state arrestate con lei, impaurite e senza i soldi per pagare l'avvocato, hanno subito già un processo per direttissima. I giudici sono stati, per così dire, clementi, solo 10 colpi di frusta a testa. A dispetto del significato del suo nome, che vuol dire crema, la battagliera Lubna invece si è opposta e di frustate ne rischia 40. Ha giurato di presentarsi al tribunale con lo stesso velo che portava al momento del suo arresto e ha inviato 500 cartoline per assistere alla sua pubblica punizione. È importante che la gente sappia cosa succede, aveva detto ieri ai giornalisti. Chissà come è andata a finire. Grazie al nostro Adib Fateh Ali. Noi ora parliamo di un'altra questione giudiziaria che però ci riporta in Italia, in Sardegna, precisamente nella provincia di Nuoro, perché si riapre a sorpresa uno dei casi di cronaca nera più controversi degli ultimi anni, quello dell'omicidio della figlia adolescente di Matteo Boe, che era stato uno dei rapitori di Farouk Hassam. 6 mesi di tempo al PM per disporre nuove indagini e far effettuare gli accertamenti biologici sul bossolo di fucile ritrovato sul luogo del delitto. Con questa decisione il GIP del Tribunale di Nuoro ha riaperto ieri una delle vicende di cronaca più note degli ultimi anni. Luisa Manfredi, 14 anni, viene uccisa da una fucilata il 25 novembre del 2003 nel balcone della sua abitazione alla periferia di Lula, nel nuorese. E la figlia di Matteo Boe è Laura Manfredi, lui bandito inafferrabile, accusato di parecchi sequestri, lei compagna fedele anche negli anni della latitanza. Quando Luisa muore, il padre è in carcere Orvieto, dove sconta, tra le altre, la condanna a 20 anni per il rapimento di Farouk Hassam. Le ipotesi degli inquirenti sono due. C'è la pista passionale, secondo la quale a sparare sarebbe stato un ragazzino del posto, forse un pretendente respinto. Un'ipotesi che tramonta definitivamente 5 anni dopo con il proscioglimento del giovane. L'altro indagato è l'ex assessore al turismo del comune, Giampiero Cicconi. Proprio nell'ambito della tormentata vita politica del paese, senza sindaco per 10 anni tra il 92 e il 2002, sarebbe nato, secondo la famiglia della vittima, l'omicidio. Luisa sarebbe stata vittima involontaria di una lunga lunga stagione di minacce e intimidazioni tra le due fazioni che si contendono il controllo di Lula. Nel 2006 il PM chiede per Cicconi l'archiviazione, provvedimento al quale la famiglia si oppone. Il risultato viene raggiunto solo ieri dopo 3 anni, 2 opposizioni, un passaggio in Cassazione, la pubblicazione di un libro memoriale da parte della madre e la ripetizione di un'udienza che il GIP non aveva mai fissato. Un semplice vizio procedurale riaccende le speranze di giustizia per la famiglia di Laura Manfredi, che non ha voglia di parlare dopo tanto tempo, ma ha detto di attendere con curiosità il risultato delle perizie. Fabio Pisano, GR 24, Il Sole 24 Ore. L'AMRAEF, un'organizzazione no profit, ha deciso di mettere in piedi un'iniziativa in occasione dei mondiali di nuoto che, come sempre lo ricordiamo, sono in corso a Roma. Saranno assegnate 65 medaglie e per ogni medaglia, se lo sponsor dell'atleta vincitore naturalmente sarà disposto a dare dei soldi, si costruirà un pozzo in Africa. Sentiamo il racconto di questa iniziativa nell'intervista di Dario Ricci. Tommy Simmons, direttore generale di AMRAEF Italia. Obiettivo di AMRAEF, 65 pozzi d'acqua in Africa, uno per ogni medaglia d'oro di questi campionati del mondo. A che punto siamo? Credo che siamo arrivati al punto 17 su 65, sponsor che hanno voluto regalare un pozzo a questi atleti, ma soprattutto a queste comunità in Africa che veramente ne hanno bisogno. Continuiamo a insistere nel ricercare nuovi sponsor, approfittando di questa occasione, combinando l'acqua delle piscine all'acqua che non c'è in Africa. E l'obiettivo complessivo per l'anno prossimo per AMRAEF è di portare acqua pulita a 100.000 persone che non ce l'hanno, in alcuni casi proprio non hanno neanche l'acqua sporca, per cui contiamo veramente sulla spinta di questi mondiali. In quali paesi verranno scavati, costruiti questi pozzi? Questi posti specifici in Kenya e in Tanzania. Attualmente in Kenya c'è una siccità assolutamente devastante, quasi un terzo della popolazione non ha cibo a sufficienza, molte delle falde si stanno asciugando. Di sicuro non pioverà fino a ottobre-novembre, ma contare sulle precipitazioni per avere una garanzia di avere un po' d'acqua a casa per l'igiene, per bere, per cucinare, non è veramente sufficiente. Quando è possibile scavare dei pozzi e quando è possibile dare della continuità? Appunto per lenire l'impatto di questi eventi climatici che a volte possono essere veramente catastrofici. Tra l'altro questi pozzi avranno i nomi dei medagliati, quindi siete anche pronti a fare un Federica Pellegrini 1, 2, 3 se arriveranno più medaglie d'oro? Saremo felicissimi di farne Federica Pellegrini 5, 6, 7 volendo, con il suo nome, con il nome dello sponsor, e sia l'atleta che lo sponsor riceveranno la fotografia del pozzo completo con il loro nome e con il nome dell'atleta. Qual è il costo medio di ognuno di questi pozzi? In media riusciamo a realizzare ogni pozzo con 3.000 euro. Ci sono anche i pozzi artesiani ovviamente che costano di più, ma questi sono pozzi dove, in zona dove c'è acqua nelle falde non troppo profonde, sono pozzi scavati a mano e con il contributo della comunità riusciamo a contenere questo costo per 3.000 euro. 3.000 euro per regalare acqua pulita a 100, 200, 300 famiglie in perpetuità praticamente è una cifra veramente bassissima se si considera il valore che questo bene ha. Alla luce della sua esperienza, i mondiali dell'acqua, come vogliono essere questi di Roma 2009, possono essere un elemento propulsivo per attirare l'attenzione su queste grandi tematiche mondiali? Questi eventi hanno un'attenzione mediatica enorme, dipende da giornalisti se poi si riesce a tradurre in un'attenzione, un'informazione anche al più grande pubblico di un'iniziativa che è molto importante, che offre tantissime opportunità, ma che ha bisogno di un riscontro da parte dei media. GR Extra Large, un breve riepilogo delle principali notizie della giornata. Vertice di Berlusconi con alcuni ministri sul piano per il Sud. Si prepara una bozza da portare venerdì in Consiglio dei Ministri. Tremonti alla Camera sul DPF. L'Italia non è in declino. Il sistema economico italiano tiene e va meglio rispetto ad altri paesi. Autobomba nel nord della Spagna, una 50 di feriti. Nessuna rivendicazione, ma si pensa all'ETA. Omicidio-suicidio a Rovicino, Milano. Un uomo ha ucciso la moglie in strada, poi si è tolto la vita. Bloccati alcuni check-in all'aeroporto napoletano di Capodichino. protestano i dipendenti della società di gestione che a luglio non prenderanno lo stipendio. Momenti di tensione con i poliziotti in assetto antisommossa, disagi per i passeggeri per i ritardi. Infine, per la Formula 1, la BMW annuncia la fine della stagione, abbandoneremo appunto la Formula 1. I vertici parlano anche di ragioni ecologiste. È tutto per XL, curato e condotto da Alessandra Tedesco, al coordinamento Maria Piera Ceci, in regia Fabio Cantadori. Ci si risente domani alle 13. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.